Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un benvenuto da Maurizio Melis. C'è una quantità di animaletti, parliamo di organismi unicellulari molto semplici, che tuttavia sono anche molto preziosi per la loro capacità di decomporre la materia organica producendo gas combustibili. Per lo più si tratta di metano. Stiamo parlando del biogas che si ottiene per fermentazione dando in pasto ai suddetti animaletti scarti vegetali e animali, per lo più insomma scarti agricoli. Continuiamo allora l'esplorazione di Mr. Kilowatt dei principali aspetti normativi e autorizzativi, affrontando oggi, questa sera, il tema del biogas. Ne parliamo con Lorella Rossi, ricercatrice del CRPA, il Centro Ricerche e Produzioni Animali di Reggio Emilia. Buonasera Rossi. Buonasera a lei. Allora Rossi, cominciamo con, come dire, il quadro degli incentivi. Ce ne sono e di che tipo? Sì, assolutamente sì. La produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, quando ottenuta da biogas, è incentivata con la tariffa omnicomprensiva di 28 centesimi per kilowattora per impianti sino alla taglia di un megawatt elettrico installato. Per impianti di taglia superiore è prevista invece, oltre che la remunerazione dell'energia elettrica, il rilascio dei certificati verdi, ma in quantità maggiorata dell'1,8, quindi si moltiplica per un coefficiente pari a 1,8. C'è un fattore moltiplicativo. Ecco, invece non si può vendere il gas. Si può vendere, ma non c'è l'incentivazione economica. Nessuno glielo vieta, ma di fatto non conviene. Non insomma, è conveniente, farlo. Esatto. D'accordo. Ci si sta puntando a quello. Certo. Soprattutto mi risulta a separare proprio il metano, si parlerebbe in questo caso di biometano, dal resto dei componenti del gas che sono meno preziosi, insomma meno utili. Assolutamente. Ecco, senta, per quanto riguarda invece il processo autorizzativo, quali sono gli elementi principali? Ma un impianto di biogas deve sottostare l'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 387, ma sono previste delle semplificazioni per le piccole taglie, nel senso che per impianti fino a 250 kW elettrici si può procedere mediante denuncia di inizio attività. Che è la stessa che si fa tipicamente per esempio per una ristrutturazione. Esatto. Quindi un livello diverso si sta definendo anche un percorso di questo tipo, quindi della DIA anche per gli impianti sino ad un megawatt. Ma non è ancora operativa perché occorre chiarire tutta una serie di aspetti. Cioè c'è il problema solito che siccome, come dire, la normativa poi finisce in mano agli enti locali, spesso c'è proprio un problema di aggiornamento di questi enti locali rispetto alla normativa? Sì, anche di diverso comportamento, quindi non sempre non dover fare la procedura dell'autorizzazione unica può voler dire percorso più semplice. Ecco, non diamolo per scontato. Ecco, senta, invece durante la gestione dell'impianto, qual è l'aspetto normativo con cui è più difficile o complicato fare i conti? Durante la gestione, ma comunque anche in fase di autorizzazione, l'aspetto delicato è la gestione del materiale di risulta del processo di digestione anaerobica, che è il digestato, perché qualora non ci siano rifiuti certi ai sensi della normativa ambientale, molte volte non si sa come classificarlo dal punto di vista normativo. La strada che si sta percorrendo è quello di assimilare questo materiale comunque agli effluenti zootecnici o comunque a un fertilizzante organico, perché poi in questo modo il riutilizzo sui terreni agricoli per sfruttarne il potere fertilizzante ha delle norme già ben precise, ben dettagliate, che si preoccupano della tutela ambientale. Perché l'alternativa invece, se ci si butta dentro nei rifiuti, nel digestore, che è una cosa possibile, quello che viene fuori è per definizione un rifiuto. Sì, il l'approccio normativo vuole che se in ingresso tra le diverse biomasse io ne ho anche una sola che si configura a tutti gli effetti come rifiuto, tutto l'impianto sia assimilato ad un impianto di trattamento ai rifiuti e di conseguenza il materiale di risulta è un rifiuto. E questo quando si parla di biomasse agricole zootecniche più o meno di scarto o dedicate ha veramente poco significato, perché non significa maggior tutela ambientale. Cioè bisognerebbe, lei dire, distinguere rifiuto da rifiuto, e questo è un po' il concetto? Esatto. Perché alcuni sono rifiuti solo a parole, ma di fatto si tratta di scarti agricoli normalissimi. Esatto. O comunque scarti agroindustriali che, se ben gestiti, ad esempio come sottoprodotto, sempre ai sensi della normativa ambientale, sono proprio biomasse, sostanza organica assolutamente pulita, priva di qualunque tipo di contaminante indesiderato. D'accordo, quindi, d'accordo. È assolutamente da sostenere per favorire effettivamente il recupero di tutti questi flussi. Problema che immagino si possa porre qualcuno che abita vicino a questi impianti riguarda le emissioni, visto che viene prodotto gas. C'è qualche effettivo pericolo da questo punto di vista? No, direi di no, le emissioni sono sotto controllo, la fase che deve essere gestita in modo adeguato è la ricezione, il pretrattamento, l'alimentazione dell'impianto. Anzi, diciamo che nel momento in cui si sono dispersioni di questo gas si stanno buttando via soldi, perché è proprio il prodotto utile dell'impianto. Insomma. Assolutamente. Grazie Lorella Rossi. Grazie a voi, buonasera. Grazie anche a tutti gli ascoltatori per averci seguito fin qui. Domani dal biogas passiamo alle biomasse, parleremo di emissioni, parleremo di approvvigionamento e come sempre del principale quadro normativo. Buona serata.